Terzo anello, ad alta voce. Il Conte di Montecristo, di Alexandre Dumas. Amico mio, disse Morrel, mi avete proposto il 5 ottobre come termine della dilazione che mi avete chiesto. Amico mio, oggi è il 5 di ottobre. Sia, rispose Montecristo. Venite. Morrel seguì il conte come un automa e si trovò nella grotta senza nemmeno accorgersene. Erano in quella meravigliosa sala da pranzo che abbiamo già descritto, dove statue di marmo reggevano sulle loro teste cestelli sempre pieni di fiori e di frutta. Montecristo prese una scatoletta d'oro, il cui coperchio si sollevava premendo una molla segreta. Questa scatola conteneva una sostanza untuosa, quasi solida, e dal colore indefinibile. Il conte prese una piccola quantità di questa sostanza con un cucchiaio d'argento dorato e la offrì a Morrel, fissando su di lui un lungo sguardo. «Ecco ciò che mi avete domandato», disse. «Ecco ciò che vi ho promesso». «Mentre sono ancora vivo», disse il giovane prendendo il cucchiaio dalle mani di Montecristo, «vi ringrazio con tutto il mio cuore». E lentamente, senza alcuna esitazione, Morrel inghiottì, o piuttosto assaporò, la misteriosa sostanza offerta da Montecristo. A poco, le lampade impallidirono nelle mani delle statue di marmo che le sostenevano, e il profumo degli incensieri parve meno penetrante a Morrel. Seduto, dirimpetto a lui, Montecristo lo guardava nella penombra e Morrel vedeva brillare soltanto i suoi occhi. Un immenso dolore si impadronì del giovane. Gli oggetti perdevano insensibilmente la loro forma e il loro colore. I suoi occhi offuscati vedevano aprirsi come delle porte e dei tendaggi nei muri. «Amico», disse, «io sento che muoio. Grazie». Fece un tentativo di tendergli un'ultima volta la mano, ma essa ricadde senza forze. Allora gli sembrò che Montecristo sorridesse, non più di quel sorriso terribile e misterioso che molte volte gli aveva fatto intuire i misteri di quell'anima profonda, ma con la benevolente compassione che i padri hanno per i loro figli che non ragionano. Nello stesso tempo vedeva il conte ingrandire i suoi occhi. La sua statura, quasi raddoppiata, si disegnava sulla tappezzeria rossa. Aveva i capelli neri gettati all'indietro e appariva in piedi, fiero, come uno di quegli angeli che minacciano i malvagi nel giorno del giudizio finale. Morrel, abbattuto e vinto, si rovesciò sul divano. Un torpore voluttuoso si insinuò in ogni sua fibra. Un mutamento di idee gli popolò, per così dire, la mente come una nuova disposizione anima il caleidoscopio. Steso, snervato, anelante, Morrel non sentiva più nulla di vivo in lui, tranne quel sogno. Gli sembrava di entrare a vere spiegate in quel vago delirio che precede quel traguardo sconosciuto che si chiama morte. Tentò ancora di tendere la mano al conte, ma stavolta non si mosse nemmeno. Volle articolare un ultimo addio. La lingua strisciò pesantemente sul palato, chiudendogli la gola come una pietra chiude il sepolcro. I suoi occhi, carichi di languore, si chiusero suo malgrado. Però dietro alle palpebre fluttuava un'immagine che riconobbe, nonostante l'oscurità da cui si sentiva avvolto. Era il conte che aveva aperto una porta. Ad un tratto, un immenso chiarore proveniente dalla camera vicina, o piuttosto da un palazzo meraviglioso, inondò di luce la sala dove Morrel si stava abbandonando alla sua dolce agonia. Allora vide venire sulla soglia di quella sala una donna di meravigliosa bellezza, pallida e dolcemente sorridente. Sembrava l'angelo della misericordia in atto di supplicare l'angelo vendicatore. «È forse il cielo che già si apre per me», pensò il moribondo. «Quell'angelo assomiglia a quello che ho perduto». Montecristo indicò alla ragazza la poltrona sulla quale riposava Morrel. Lei andò verso di lui con le mani giunte e il sorriso sulle labbra. «Valentin, Valentin! Gridò Morrel dal fondo dell'anima sua, ma le labbra non proferirono alcun suono, e come se tutte le sue forze fossero concentrate in quella sua emozione interna, mandò un sospiro e chiuse gli occhi. Valentin si precipitò verso di lui. «Sentite, Valentin», disse il conte, «ho un favore da chiedervi». «A me, gran Dio! Sarei tanto felice se...» «Sì, avete chiamato Aide vostra sorella. Lo sia di fatto, Valentin. Rendete a lei tutto ciò che voi credete di dovere a me. Proteggetela, voi e Morrel, poiché...» La voce del conte era prossima a spegnersi in gola. «Poiché d'ora innanzi lei... sarà sola al mondo». «Sola al mondo?» ripeté una voce dietro il conte. «E perché?» Montecristo si voltò. Aide era là, ritta, pallida e tremante, guardando il conte con un'espressione di mortale stupore. «Perché domani, figlia mia, tu sarai libera», rispose il conte. «Perché tu riprenderai nel mondo il posto che ti è dovuto. Perché non voglio che il mio destino oscuri il tuo, figlia di principe. Io ti restituisco le ricchezze e il nome di tuo padre». Aide impallidì. Aprì le sue mani diafane come fa la vergine che si raccomanda a Dio e con voce soffocata dai singhiozzi. «Dunque, mio signore, tu mi lasci?» disse. «Aide, Aide, tu sei giovane, sei bella. Dimentica perfino il mio nome e sii felice». «Sta bene», disse Aide. «I tuoi ordini saranno eseguiti, mio signore. dimenticherò perfino il tuo nome e sarò felice. E fece un passo indietro per ritirarsi. Oh mio Dio, gridò Valentin, non vedete dunque com'è pallida? Non capite che soffre? Perché vuoi dunque, sorella mia, le disse Aide con espressione triste, che mi comprenda? Lui è il mio padrone. Io sono la sua schiava. Hai il diritto di non comprendere nulla. Il conte fremette al tono di quella voce che risvegliò perfino le fibre più remote del suo cuore. I suoi occhi incontrarono quelli della giovane donna e non poterono sostenere lo sguardo. Mio Dio, disse Montecristo. Sarebbe dunque vero. Aide, dunque tu saresti felice con me? Io sono giovane, rispose lei dolcemente. Amo la vita che tu mi hai reso sempre così dolce e mi dispiacerebbe morire. Vuoi dire che se io ti lasciassi, Aide, morirei? Mio signore, sì, tu dunque mi ami. Valentin, chiede se io l'amo, disse Aide rivolta a Valentin. Digli tu dunque se ami Maximilien. Il conte sentì il petto allargarglisi e il cuore dilatarsi. Aprì le braccia e Aide vi si gettò con un grido. Oh sì, sì, io ti amo, disse. Io ti amo come si ama il proprio padre, il proprio fratello, il proprio marito. Io ti amo come si ama la vita, perché tu sei per me il più bello, il migliore, il più grande degli esseri viventi. Sia dunque come vuoi, angelo mio diletto, disse il conte. Oh Dio, è io che volevo punirmi. Dio vuole perdonarmi. Amami dunque, Aide. Chissà, il tuo amore forse mi farà dimenticare ciò che è necessario che io dimentichi. Ma che dici dunque, mio signore? Disse la ragazza. Dico che una tua parola, Aide, mi ha illuminato più di 20 anni della mia lenta saggezza. Non ho più che te al mondo, Aide. Per te mi riconcilio con la vita. Per te posso soffrire o essere felice. Lo senti, Valentin? Gridò Aide. Dice che per me potrà soffrire. Per me, che darei la vita per lui. Il conte rifletté un istante. Ho intravisto la verità, disse. Oh mio Dio, ricompensa o castigo, accetto questo destino. Vieni, Aide, vieni. E cingendo con un braccio la vita della giovane, strinse la mano di Valentin e scomparve. Passò circa un'ora, durante la quale, anelante, senza voce, con gli occhi fissi, Valentin stette vicino a Morrel. Finalmente sentì battere il suo cuore. Un soffio impercettibile schiuse le sue labbra e quel leggero fremito che annunciava il ritorno della vita percorse tutto il corpo del giovane. I suoi occhi finalmente si riaprirono, ma immobili e stravolti. Quindi la vista gli tornò nitida, e con la vista gli tornò il sentimento, e con il sentimento il dolore. «Io vivo ancora!» gridò con l'accento della disperazione. «Il conte mi ha ingannato!» «Amico», disse Valentin con il suo adorabile sorriso, «svegliatevi dunque e guardatemi!» Morrel, delirante, dubbioso, abbagliato come da una visione celeste, cadde sulle ginocchia. L'indomani, ai primi raggi del giorno, Morrel e Valentin passeggiavano, l'uno al braccio dell'altra, sulla spiaggia. Morrel scorse nella penombra di un gruppo di rocce un uomo che aspettava un cenno per farsi avanti. Lo indicò a Valentin. «Ah, è Jacopo», disse, «il capitano dello yacht», e con un gesto lo chiamò. «Avete qualche cosa da dirci?» domandò Morrel. «Ho da consegnarvi questa lettera da parte del conte». Morrel aprì la lettera e lesse. «Mio caro Maximilien, troverete per voi una feluca all'ancora. Jacopo vi condurrà a Livorno, dove il signor Noirtier aspetta sua nipote, che vuol benedire prima che la conduciate all'altare. Tutto ciò che è in questa grotta, amico mio, la mia casa agli Champs-Élysées e il mio piccolo castello di Tréport, sono regali di nozze che Edmond Dantès fa al figlio del suo padrone Morrel. La signorina di Villefort vorrà accettarne la metà, poiché la supplico di distribuire ai poveri di Parigi tutti i beni derivanti dall'eredità di suo padre, divenuto pazzo, e di suo fratello morto lo scorso settembre con la sua matrigna. Dite all'angelo che veglierà sulla vostra vita, Morrel, di pregare qualche volta per un uomo che, simile a Satana, si è creduto per un istante simile a Dio e che ha riconosciuto con tutta l'umiltà di un cristiano che nelle mani di Dio soltanto risiedono il supremo potere e l'infinita sapienza. Tali preghiere addolciranno forse i rimorsi che porta con sé nel profondo del cuore. Quanto a voi, Morrel, ecco tutto il motivo segreto della mia condotta verso di voi. Non vi sono né felicità né infelicità assolute in questo mondo. Vi è soltanto il paragone tra una condizione e l'altra. Ecco tutto. Solo colui che ha provato l'estremo dolore è atto a gustare la più grande felicità. Bisogna aver desiderato la morte, Maximilien, per sapere quanto è bello vivere. Vivete dunque, e siate felici, figli prediletti del mio cuore, e non dimenticate mai che fino al giorno in cui Dio si degnerà di svelare all'uomo i segreti dell'avvenire, tutta la saggezza umana sarà riposta in queste due parole: aspettare e sperare. Il vostro amico, Edmond Dantès, conte di Montecristo». Durante la lettura di questa lettera, che le comunicava la follia di suo padre e la morte di suo fratello, follia e morte che ignorava, Valentin impallidì. Un doloroso sospiro le sfuggì dal petto e alcune lacrime silenziose, ma non per questo meno amare, bagnarono le sue guance. La sua felicità le costava ben cara. Morrel guardò intorno a sé con inquietudine. «Ma», disse, «in verità il conte esagera la sua generosità. Valentin si accontenterà della mia modesta fortuna. Dov'è il conte, amico mio? Conducetemi da lui!» Jacopo stese la mano verso l'orizzonte. Gli occhi dei due giovani si fissarono nella direzione indicata dal marinaio e sulla linea di un azzurro più cupo che separava all'orizzonte il cielo dal Mediterraneo scorsero una vela bianca, grande, come l'ala di un gabbiano. «Partito!» gridò Morrel. «Partito! Addio, amico e padre mio!» «Partita!» mormorò Valentin. «Addio, amica mia! Addio, sorella mia!» «Chissà se li rivedremo ancora», disse Morrel asciugandosi una lacrima. «Amico mio», disse Valentin, «il conte non ci ha forse lasciato scritto che l'umana saggezza sta racchiusa in queste due parole? Aspettare e sperare?» Chi ha sentito fin dall'inizio la lettura del Conte di Montecristo sa che sono Enzo Siciliano, che aprì la lettura dicendo appunto che il Conte di Montecristo è uno dei grandi romanzi, non solo dell'Ottocento, ma di tutta la narrativa occidentale. E io amo molto questo romanzo, ma adesso che l'avete ascoltato tutto vorrei raccomandarvi una cosa. Di non dimenticare alcuni momenti che appartengono soltanto a un libro come il Conte di Montecristo. Sì, certo, c'è l'abate Faria con la sua saggezza, c'è lui, c'è lui il conte con la sua isola, la sua capacità di manovrare il destino degli altri sempre a fin di bene. Però vorrei che di tutto il romanzo voi non dimenticaste alcuni momenti che sono soltanto di questo romanzo e che appartengono in un certo senso anche alla nostra storia, dico alla nostra storia italiana. Non c'è romanzo dell'Ottocento che abbia saputo raccontare, come nel Conte di Montecristo è raccontata, la Roma di quel tempo, la Roma tra gli anni 30 e 40 del secolo XIX. E non c'è stato nessun scrittore italiano che ha saputo raccontare che cosa fosse la vita di una città come Roma, una grande capitale, non soltanto per il suo lato mondano, ma anche per il suo lato avventuroso. Roma era un luogo in cui appunto si veniva per apprendere qualcosa della vita e dell'arte. Ma Dumas di Roma racconta come se fosse un italiano, e l'ha guardata con un occhio innamorato e l'ha saputa rappresentare con una immediatezza che appunto soltanto magari un italiano avrebbe saputo avere. Insomma, vi prego di non dimenticare che in questo romanzo francese c'è qualcosa che ci appartiene per corpo e per sangue, e poi non vorrei che dimenticaste di tutto il racconto quale sia stata la forza devastante dell'economicismo, del traffico di denaro, che ha fatto dell'Europa così un centro certamente vitale e propulsivo, ma dentro quella vitalità e dentro quella propulsione è possibile leggere oggi a distanza di più di un secolo, qualcosa di abbastanza tragico che probabilmente ci accompagna ancora. Non perché il denaro sporchi, ma perché il traffico sul denaro è qualcosa che che può ferire la coscienza degli uomini. Giordana ha letto Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas, postfazione di Enzo Siciliano, traduzione di Emilio Franceschini per le edizioni Mondadori, regia Anna Antonelli, riduzione Chiara Nicoletti, coordinamento Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.